Per ciò che riguarda le halakhot del giorno di Kippur, allora le halakhot del giorno di Kippur iniziano dal giorno prima, che è la vigilia di Kippur, che assume uno status particolare. Vediamo cosa dice l'halakha. Kevan she Yom HaKippurim, giusto? No. Bene, No, ho sbagliato pagina io. ah, questo noi chiamiamo la Alef. Hot Yom HaKippurim. Sì. Alef. Hilchot Yom HaKippurim, Mitzvat Aseh min HaTorah. Ho sbagliato di nuovo, scusate. Seder Sì, Erev Yom è la Kippur. sera, no? Questa. Sì, benissimo. Allora, Ve'initem et nafshotechem betisha lachodesh vegomer. La Torah dice: affliggerete voi stessi, Ve'initem et nafshotechem, il giorno 9 del mese, la sera, Betisha lachodesh ba'erev, il giorno 9, la sera. Ora, in generale, quando la Torah dice una data di un evento come un Moed, per esempio, la Torah non dice mai quando è la vigilia del Moed. La Torah dice Sukkot è il 15 di Tishri, per esempio, il settimo mese. E noi abbiamo capito che il 15 inizia la sera prima, come sempre, Vayei Erev, Vayei Boker, la sera precede la giornata. Invece, quando si parla di Kippur, si dice vi affliggerete, voi stessi vi affliggerete dal 9 alla sera, perché fa riferimento al 9. Kippur è il 10 e noi capiamo che il 10 inizia la sera prima, lo Sappiamo, basta dire sì. sappiamo sempre. Per quale motivo la Torah parla del 10, del 9? E i maestri appunto qui citati si chiedono: Vechi batish'a mit'anin? È forse il fatto che ci si affligge nel 9 del mese? Valo en mit'anin el abasiri. L'afflizione e il digiuno non è che nel decimo del mese. Shenemar, come è anche detto, Be Assor Lachodesh, te annu et nafshotechem, il giorno 10 del mese affliggerete voi stessi. E tra l'altro, in quel contesto dove usa la data 10, dice da sera a sera. Quindi lo dice anche chiaramente che inizia la sera prima. Shenemar me erev aderev. Allora, perché si fa riferimento al 9? I maestri spiegano, è là solamente. Inyan HaKatuv, ciò che il versetto ci vuole trasmettere, Hachinu Atzmechem Bateshi'i, preparatevi durante il nono giorno le Inui Ha'asiri, per l'afflizione del decimo giorno. Cosa significa? Shetochelu Vetishtu Bateshi'i. È un obbligo, quindi. Mangerete e beverete e berrete nel nono giorno, che deishe tuchluli itanot basiri, in modo tale che potrete poi avere la forza di digiunare nel decimo giorno. Vehu me ahavat HaKadosh Baruch Hu Israel, e questa mitzvah è dall'affetto di HaKadosh Baruch Hu verso Israel, shelo tzivvam li itanot ela yom echad bashana, che l'obbligo della Torah che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato direttamente di digiunare non è che un giorno l'anno. Uletovatam è anche per il nostro bene. Lechaper avonotehem, per contribuire alla kapara, alla espiazione dei nostri avonot, i nostri peccati. E ci ha detto di digiunare solo una volta l'anno e ci ha anche comandato di mangiare prima. Vetzivam, e li comandò, sheyochelu veishtu techila, shelo yazik lahem ha'inui, di mangiare e bere prima in modo tale che quell'afflizione non li danneggi. Ok? Ora, la Torah allude a questa cosa dicendo affliggerete voi stessi già dal 9, ma non dice mangerete. Secondo questa spiegazione avrebbe dovuto dire mangiate il 9 e digiunate il 10. Invece si usa un termine ve'initem, che è afflizione, lo stesso termine che si usa per il giorno di Kippur stesso in questa allusione, perché si allude anche ad un'altra cosa. Ma she'otzi ha'katuv et ha'achila be'lashon inui. Fatto che il versetto usa il termine inui afflizione, quando allude appunto al prepararsi all'afflizione, cioè al mangiare. Velo amar beferush, non dice esplicitamente sheyocheluvi ishtubateshi, di mangiare e bere il nono giorno. Lo mar lecha, per insegnarti. Sheha'ochel vashote bateshi, chi mangia e beve il nono giorno, ma alea lava katuv, il verso, la Torah, considera per lui. che ilu ayam mitanebo, come se avesse digiunato anche quel giorno lì. Mahamat mitzvat HaKadosh Baruch Hu, shetziva litanot bo, per se lui mangia, perché è mitzvah di mangiare in questo giorno, è come se avesse fatto un'afflizione doppia di due giorni. Perché? Perché questo che lui mangia è per prepararsi per Kippur, che è l'inui, ed è considerato una mitzvah quanto mangiare il giorno prima è considerato una mitzvah quanto digiunare il giorno dopo. Ok? Sì, l'ho letto su il segreto. Allora lo esprime in questa maniera. She'en sachara ochel veshote mahamat mitzvat HaKadosh Baruch Hu, dome la sachara mitane mahamat mitzvat HaKadosh Baruch Hu. È chiaro che chi mangia perché c'è una mitzvah di mangiare non ha una ricompensa quanto chi si affligge perché c'è una mitzvah di affliggerci. Cosa è più difficile, mangiare o digiunare? Digiunare. Allora, in proporzione, in teoria, la ricompensa sarebbe maggiore per chi digiuna rispetto a chi mangia, sempre se lo fa per mitzvah di HaKadosh Baruch Hu, ma comunque è una mitzvah facile mangiare, più facile di digiunare. E per questo la Torah ci dice qui, allude a questo fatto con il termine afflizione, per dirci che non viene a meno la ricompensa del mangiare ed è uguale a quella anche del digiuno del giorno successivo. Ok? Avalzeshe ochel veshote batesi, invece colui che mangia e beve il nono giorno del mese, secharo arbe meod, ha una grande ricompensa, che ilo ayam itane batesi u basiri, come se avesse digiunato entrambi i giorni, mahamat mitzvata kadosh baruch hu shetzivale itanot vishnehem, per comando di Hashem che comandò di appunto affliggersi in entrambi i giorni, uno esplicito e uno diciamo alluso. Kivan she Yom HaKippur, poi si approfondisce, visto che il giorno stesso di Kippur, Yom HaKippurim Atzmo, Iefshar lechabedo b'machal u'mishte, visto che Kippur comunque ha uno status di un Moed, o simile a un Moed, o simile a uno Shabbat, un giorno che va rispettato, Kavod, una delle modalità con le quali noi rispettiamo, diamo Kavod allo Shabbat e al Moed, è attraverso proprio la Seudah. Il fatto che mangiamo bene, ci mettiamo a tavola in maniera rispettabile e onorata, eccetera, questo per ricca, però di Kippur ci manca questo elemento, nonostante sia un Moed, non abbiamo la possibilità di rispettare quel Moed o Shabbat, diciamo, in questa maniera. Di conseguenza, cosa succede? Che noi anticipiamo al giorno prima. Visto che non lo possiamo fare, che derech shemechabedin shear yom tov, così come lo si fa in qualsiasi altro yom tov, moed, tzarich lechabedo ba yom shelefanav, siamo tenuti a onorarlo in questa maniera nel giorno appunto successivo. E per questo motivo, se una persona ha un motivo personale che vorrebbe fare un digiuno, per esempio per un sogno cattivo, come alcuni usano, eccetera, la vigilia di Kippur è vietato. Vietato digiunare perché è mitzvah mangiare, sì. Il mangiare si sta già come pasto di festa proprio? Sì, sì, la vigilia di Kippur si fa un pasto simile a un pasto di Shabbat. Un pasto gioioso o un pasto, cioè, mettersi seduti? No, assolutamente, diciamo, come se fosse un moed. Si mette la tovaglia, si fanno i tirati ad ain. Non quello prima di prendere, proprio il giorno prima. Cioè non il pranzo della vigilia di Kippur, per esempio, quello. Questa settimana sarà venedì. Esatto, venerdì. Quello lì, alle 5, quello quando si fa alle 4, alle 5. Sì. Quello per entrare. Poi, non quello prima. No. Aspetta, non la sera prima, bravo, bravissimo. Dire, no? Sì, questo la halakha lo dice chiaramente che il fatto che il nono è considerato Yom Tov è più che altro il giorno e non la notte, anche perché in soprattutto dove si usano dire le Selichot. Quello è. Perché dove si usa dire le Selichot, come a Roma, la notte di Kippur, o la mattina presto, diciamo, si considera Moed, tra virgolette, solo la giornata, e non la sera. Sì, bravo, il pranzo, che però è distinto dalla Seudah Mafseket, che adesso vedremo. Ci sono quindi due pasti. Prima il pranzo, certo. C'è il pranzo che è più frivolo, questo è quello di mitzvah. No, infatti era questo. No. Allora, il pasto importante è il primo pasto che si fa. cioè il pranzo venerdì tipo pranzo pranzo di venerdì alle 3 tu sì. Ti incontri e mai ok e poi c'è quello prima no c'è uno prima no, no c'è uno dopo ah. Allora quello delle 5 appena appena prima di dell'entrata di Kippur sì. Appena prima che si va al tempio esatto. Si fa un altro piccolo pasto che si chiama Seudam Mafseket. Scusa, io ho cambiato. E questo secondo pasto, il secondo pasto è meno ricco, non con meno rispetto, cioè sempre con la tovaglia e a tavola Netilat Yadayim, però solo Netilat Yadayim mangiare un po' di pane e una pietanza. Io faccio il contrario. Allora adesso penso quasi tutti. Quasi. Una pietanza e poi si va al tempio. No, il pasto più ricco è il primo pasto. Io avevo capito il contrario. Sì, sì, sì. Infatti io ti volevo chiedere una cosa proprio su questa sì. Cosa qua, perché a Roma è usanza è che magari uno lavorando all'una spizzica un pezzo di pizza no, sì. Perché pensavo proprio che e fosse... poi dopo si incontra con le famiglie alle 3, 3 e mezza mangia fino alle allora 5. Fa direttamente il pasto grande alle 3, 3 e mezza questo volevo dire. Poi fa la birkat Amazon e 10 minuti prima di andare al tempio fa Netilat Yadayim mangia un po' di pane un piattino una pietanza birkat Amazon di nuovo e entra okay, Kippur così perfetto. Allora così. Quarto d'ora sì, no, per è quello, noi, questo poi infatti, quello di inizio, è quello che è importante la realtà, la realtà è che noi ci mettiamo seduti alle 5 e mezza ci mettiamo seduti se ok allora, allora quella diventa anche la Seudam Mafseket bravo basta sì ma noi è una cosa pratica una cosa pratica per avvicinarti al digiuno come ti ne faccio meno che un pezzettino di pizza non è così è quella che ci ferma questo ti voglio dire quelle due ore ma è puramente pratico non c'è niente di per quanto mi riguarda no però senza... è entrata allora, nella chi, tradizione chi ha la possibilità chi ha la possibilità di cambiare è meglio fare il pasto ricco prima e concludere con la Seudam Mafseket poi ognuno vede come può regolarsi come riesce a regolare però la Seudam Mafseket comunque basta che io mangio faccio mi rilavo sì, le mani un minimo un pezzo di volume pane, di pane per poter per fare la birkat Amazon poi faccio mangio una pietanza sì. Che può essere qualsiasi tipo di pietanza no sì può essere qualcosa che è rimasto dalla Seudam precedente un pezzo così, di pollo un pezzo di pesce fare. Quello che è quindi deve essere comunque un piatto di carne o di pesce non ma è che diciamo, può essere no, no non per forza ah, okay. Basta che tu la consideri una seudà diciamo perfetto e poi dopo rifaccio la birkat Amazon e poi vado al tempo sì e il fatto di mangiare l'uovo non si doveva mangiare in questa seudà no? Non c'è il fatto di mangiare un uovo non credo ok di Shabeav c'è l'uovo è verde Shabeav di Shabeav non è lutto non è lutto cose che non si mangiano per la vigilia ci stanno oppure sì c'è qualcosa adesso vediamo però prima volevo dire un'altra cosa che nella vigilia essendo considerato un semi moed diciamo qualcuno lo definisce Yom Tov anche se non nello stesso senso di un moed vero e proprio non si dice il Tachanun già dalla mattina finché si arriva a Mincha che a Mincha c'è già chiaramente il Vidui lo stesso Vidui che si farebbe a Kippur allora momento solo poi c'è la regola delle Kapparot se voi fate con la freccia uno avanti cioè quello che va verso sinistra diciamo vediamo la regola delle Kapparot che molti usano usare proprio la gallina o il gallo per fare le Kapparot allora vediamo cos'è questo minag noagin be'elu ha'aratzot si usa in questi luoghi likach be'erev yom ha'kippurim tarnegol kapara le'zachar prendere un gallo come kapara per ogni maschio ve'tarnegolet una gallina la nekeva per ogni femmina e omrim alav e si recita ze khalifati questo mi ricambia ze temurati questo va al mio posto ze kaparati questa è la mia espiazione lasciate vot khatach ze hashem achote chaim lekol chai un machaziro saviv rosho e lo prendono e lo mettono intorno alla testa tre volte dicono una formula bene adam è intitolata ve lo fanno tre volte vosinken shlosha peamin qualcuno anche all'usanza di somchin alav di mettere le mani sulla testa della gallina prima come si faceva quando c'era il Korban, il Bet HaMikdash, che si metteva il peso sulla testa dell'animale prima e dire il Vidui e subito dopo fare la Shechita. Altri invece dicono no, non si può fare la Semicha, cioè poggiarsi sopra, perché sembra come se si facesse una cosa del Bet HaMikdash, e quindi c'è una discussione su questo, perché la Halakha comunque dice non c'è problema in realtà, perché un gallo o una gallina non sarebbe neanche kasher per un korban. Non esiste un korban che si può fare con una gallina o un gallo, quindi non può essere simile comunque. In ogni caso, se non è disponibile la possibilità di farlo con un gallo o una gallina, allora si potrebbe usare o un altro volatile o un pesce, o come usano moltissimi, a Roma qualche anno c'è stata la possibilità di farlo con le galline, quest'anno non credo ci sia. 4 anni fa abbiamo fatto. Sì, qualche volta. Però la cosa più comune è di prendere dei soldi che corrispondono a una gallina, nel senso che corrispondono a quello che può essere un pasto per dei poveri, ok? Sì, esattamente, ma prendere questi soldi di Tzedakah, magari metterli in una busta e fare proprio, o consegnarli direttamente, ma anche fare proprio la kapara, kaparati, con la busta e poi consegnare in Tzedakah. Ovviamente valido anche non avendo fatto la formula, l'importante è che arriva a chi ha bisogno, e questo funziona come kapara. Ok, allora qui c'è tutta una discussione sulle galline. Della gallina ho letto. Sì. Che, così come il significato che potremmo morire anche noi, come c'è, cioè, al posto della gallina. Esattamente, la caparà significa questo, che noi, no? Diciamo proprio questo va, esatto, al posto mio. Cioè, come dire, se io dovessi scontare una pena, esatto, così dura e addirittura una pena capitale, se potessi entrare in qualche divieto della Torah che arriva a questo punto, allora la persona nel prepararsi per la Teshuvah di Kippur in qualche maniera è come se si immedesimasse nella gallina, sì, per sì, così sì, dire, certo. E dice questo è come se fosse al mio posto, però poi non è solamente il fatto della Shechita della gallina, è anche il donarlo in Tzedakah, nel senso che in molte comunità usano che danno proprio le galline ai poveri. La Halakha dice anche è meglio tenere la gallina a casa e dare il valore ai poveri, perché potrebbe essere imbarazzante per i poveri, dice ecco la gallina, no? Però in altre comunità sono magari organizzati che preparano e poi danno in una maniera più degna, eccetera. Ogni posto in base all'usanza del luogo specifico. Ma questa cosa della gallina si faceva anche quando c'era Bet HaMikdash? È un'usanza molto antica. Però non credo, quando c'era il Bet HaMikdash c'erano proprio le korbanot vere e proprie, allora non lo so, non mi sembra, però da approfondire, non credo. Allora, solo un'altra cosa, se andate di nuovo sulla sinistra, che arriviamo al prossimo capitolo. Avera sheben adam la chavero, qualsiasi peccato tra uomo e uomo, en yom kippurim mechaper. Il giorno di Kippur non espia questo peccato, se non che la persona ha chiesto perdono alla persona. Ok? Ace yeratze et chaverò, finché non è placato. Finché non fa placare il prossimo. Sheneemar, come detto nella Torah, chi bayom azeh yechaper alechem, poiché in questo giorno il Signore farà per voi una kapara, un'espiazione. Le taheretchem, per rendervi puri, mikol chatotechem, da tutti i vostri peccati, lifnei Hashem, dinanzi al Signore. I vostri peccati dinanzi al Signore significa ciò che avete peccato davanti a Lui vi perdona volentieri, ma ciò che avete peccato davanti a qualcun altro, cioè un'altra persona, è l'altra persona che prima vi deve perdonare. Klomar significa Chatotechem shem lifnei Hashem levad, solamente i vostri peccati che sono davanti al Signore, cioè nei confronti del Signore. Yom HaKippurim mechaper. Allora ciò è perdonato dal fatto stesso che facciamo Teshuvah nel giorno di Kippur. Aval mashe ben adam la chavero, ma ciò che avviene tra un uomo e l'altro, en Yom HaKippurim mechaper, il giorno di Kippur non rende automaticamente una kapara, adce yefayesenu, finché non viene placata la persona direttamente. L'efficach, perciò, iten kol adam el libo ber yom kippurim, ognuno deve dare attenzione il giorno di, entro diciamo la vigilia di Kippur o la vigilia stessa, le fayes per placare le chol mishe pashak negdo, ogni persona che eventualmente avrebbe peccato contro di lui, va filo lo iknito e la bidvarim, anche se non è un peccato vero e proprio nel senso che gli ha rubato o lo ha ingannato, anche solamente con la parola, anche se lo ha fatto innervosire o arrabbiare solamente con la parola, tzarich lelech ulefaiso, deve andare a farlo placare, ulvakesh mimenu sheyim chollo, e chiedergli di perdonargli. Ubishaat bakashat mechila, e l'alaha è che nel momento in cui chiede il perdono deve dire perché chiede il perdono. Tzarich lefaretache, dice io ho fatto così e così, vorrei per questa cosa chiederti il perdono, cioè per la cosa specifica. Però se sarebbe il caso che la persona si troverebbe in imbarazzo se gli dico guarda ti chiedo il perdono per questo e questo e questo, e se faccio riferimento diretto e la persona potrebbe stare in imbarazzo, allora in quel caso non glielo devo dire, gli chiedo solo in maniera generica se mi dai, se mi perdoni. Una cosa, un appunto, sì, sì, cosa. Sì. Se uno lo chiede e non è accettato, ma comunque io sono uscito d'obbligo. È la prossima riga. Perfetto. Se lui chiede e non è accettata e non gli dà il perdono, è obbligato a chiedere un'altra volta in un'altra maniera e poi una terza volta in un'altra maniera. Solo tre volte, ok? Mm. Se la terza volta non ha ottenuto il perdono, non è più obbligato a chiederglielo, però deve comunicare in pubblico, se è una cosa che è risaputa, deve comunicare davanti a 10 uomini, come se fosse un minyan, che io sono andato a chiedere il perdono e non sono riuscito ad ottenerlo. Perché? Perché la gente non lo sospetti che lui non chiede, non è pronto a riappacificarsi e rifar placare l'altro. Vuol dire, se significa una persona ha rubato e tutti sanno che lui ha rubato da quell'altra persona e lui va lì e gli ripaga quello che ha rubato, ma oltre a ripagare deve anche ottenere il suo perdono. Sono due cose diverse. Okay? Oltre a rientrare nel danno stesso, deve anche rientrare nel danno morale, diciamo così, e chiedergli perdono. Se non lo dà, non gli dà il perdono, non glielo concede, allora abbiamo detto deve fare tre volte e poi comunicare pubblicamente che ho fatto quello che devo fare. Ok? Le colpe involontarie, cioè magari io ho avuto un comportamento che per me era normale, ma un'altra persona l'ha ritenuto. Anche questo va chiesto il perdono. Sì, ma va chiesto, se non lo sai, non lo sai. Esatto, io se sei inconsapevole, allora è diverso involontario e inconsapevole, sono due cose diverse, vero? Allora, se sei involontario, cioè non intendevi, però è stata percepita in quella maniera e poi ne vieni a sapere, chiaramente anche lì bisogna chiedere. Per questo c'è scritto nell'Alaha che bisogna chiedere scusa tra marito e moglie, perché nel corso dell'anno possono essere state dette delle parole che in realtà non erano intese, però nel calore del momento, e allora si chiede scusa in maniera generica, perché anche un figlio dai propri genitori deve chiedere scusa per qualsiasi comportamento che potrebbe essere stato non al 100%. C'è anche scritto che se un figlio non chiede perdono ai propri genitori, non per una cosa specifica, di nuovo, allora i genitori nel loro cuore devono dare perdono al figlio, ai figli. Perché? Che sia tutto chiaro per il figlio, anche se lui esplicitamente non ha chiesto questo perdono. Perché gira poi il messaggio prima di Kippur, gira sempre quello generico. Sì, è generico, che però bisogna anche, se c'è una cosa specifica, bisogna che sia una cosa più chiara. Ma va bene quella cosa così generica. No. Va bene, cioè, per, va bene, cioè, per cose generica, che non sono chiare. Cioè va cioè, bene in mancanza di qualsiasi altra cosa. Una cosa sembra quasi, se uno non però lo se lo uno sapevo, davvero ha fatto qualcosa a qualcuno, dico, quello non serve. Ma mandarlo così nella chat che a mille persone non sai come dire. Che, no, se non sai cosa? Fa, male non fa. No, male non fa, però non risolve un problema reale, diciamo così. Se ce l'hai e tu se sei c'è un problema reale, torniamo all'inconsapevole. Bravissimo, quello va bene per l'inconsapevole. Esattamente, quello va bene per l'inconsapevole. Quindi esattamente. E chiedere scusa. E concludiamo con l'usanza molto diffusa, è importante di fare la tevilà, e cioè l'immersione nel mikve il giorno della vigilia di Kippur. Su questo c'è una discussione su quale sia il motivo di questa immersione. C'è chi dice per motivi di purezza, di tumà, e invece c'è chi dice che è per motivi di simile a come per Teshuvah, come un ger, come un convertito che quando fa il ghiur deve fare l'immersione nel mikve, e così come se diventasse una nuova persona, anche noi attraverso la Teshuvah vorremmo, come per dire, diventare nuove persone. E secondo alcuni la Tevilà è legata invece a questo concetto, e c'è una differenza lachica se è per questo o per quello, per ciò che riguarda diversi aspetti. Cioè, uno potrebbe dire: ho fatto la Tevilà già la prima di Rosh Hashanah e non sono diventato impuro, allora non devo rifarla. Allora, se è per la purezza, non, in teoria non dovrebbe rifarla la vigilia di Kippur, però se è per Teshuvah dovrebbe sì rifarla, perché è per un'altra cosa. Quindi è chiaro che chi ha la possibilità è molto bene che faccia la Tevilà la vigilia di Kippur. Molti usano farla, non so se a Roma abbiamo questa possibilità, però è di farla più vicino a Kippur possibile, tipo orario di Minchà, sì. No? Il pomeriggio. La mattina. Sì, infatti. La sera dopo aver fatto. Ok. Fino alla mattina. Sì, concludiamo la registrazione.